facendo male. Prova radio. Cosa vuoi da me? Che è? Sei tu sì. Oh, oi, sto facendo male. Nulla, ma sei tu sei. E adesso meglio sto scendo. Prova. C'ho due cavi ossidati. Ah, ebbene, a Sassari sì. Buonasera, no, a Nuoro. Quando ci vediamo mettiamo la roba là. Anche quei più famosi microfoni, perché alla fine la gente è convinta che io li devo lasciare a provare, no? Ce li vuoi, viste com'è tutto, viste i piaciuti? No, non mi interessa, ma non ti interessa neanche a provarli. Sì, ok. No, anche domani mattina va bene. Sì, perché è a posto, quello là. Poi se riusciamo a trovare un case più tranquillo, ho cambiato anche la batteria a tampone. E poi per quanto riguarda il portatile, riportalo se, ti fa schermata blu, mi hai detto. Sì, schermata blu mi fa, non capisco perché. Ma allora tu lo accendi, avvia Windows, poi ti fa schermata blu. No, Windows non la via per niente, solo schermata blu fa. Che strano, Poi io l'ho provato, ma ti avevo detto, guarda che questo computer è un bollentino che è da resettare. Non so, strano, perché tutto collegato bene. Vabbè, lo controlliamo, non c'è problema. Non c'è problema, se lo vediamo, lo lasci, portamelo. Ma me ne ho comprato uno da poco, da un tipo. Ci ho messo dei pezzi, comunque un i3, non la capì, ma è, so vedere, fiammante. L'ho pagato molto, però ci ho messo pezzi. Ci ho messo lo schermo nuovo, il pannello LCD e l'hard disk ho cambiato. E l'ho portato da 4 giga a 8 giga di RAM, ma tu devi vedere, è una bombetta. Ma lo immagino, Ma sto ancora fischiando, c'è l'alternata? No, c'hai l'alternata, sì, stai un po' fischiando. Mannaggia. Adesso no, vero? Adesso no. C'ho il processore della radio un po' incasinato. Cioè, non è incasinato, ma no, ci sono i parametri per un'altra frequenza e quindi qua mi fischia. Vabbè, non è il convinto che stai vedendo un baracchino, ma alla fine. Già andava. Sì. Uno si è rientrato da poco. Stamattina sono tornato. E ho fatto un po' di commissioni, ma vabbè dai, l'ultima mattina ti faccio uno squillo io in mattinata e anche presto, cioè non alle 7 ovviamente, ma anche presto non c'è problema. Parte, anche alle 10 va bene, come a mezza 10 non c'è problema. Per esempio te lo carico, lo porti via, perché alla fine c'è la gente pazza. Già Guido, quel tipo che devo lasciare, te li pago, e portati i microfoni. So cosa ha fatto anche, no? Oltre ad essere intorto, non me ne frega niente, perché anche se mi ha cancellato da Facebook, non me ne ha fatti nulla perché è un randaggio. Ma anche la coscienza sporca. Poi si fa vedere io qua, io là, tu lo vedi scrivendo su Facebook e poi sei molto di fammi, perché non c'hai due soldi per comprare i microfoni. Pezzo di merda. Poi se li ha usati. Però vedi, questa volta non mi hanno fregato perché li volevano, lasciami che li provo, no? E voi mi attaccati, li ho provati, ti interessano, no? Mi devi lasciare, no, non ti faccio proprio niente. Li ho preso, li ho messi di nuovo la valigetta e li ho messi in macchina. Ciao. Ehi, dai, già le sistemo io, cioè me ne tengo, no, non c'è problema, me ne tengo quelli che mi servono e me le tengo io, non c'è nessun problema. Ma vabbè, stai detto, sto dicendo, a me, come hai detto tu, se non vuoi, visto è piaciuto, è inutile, stiamo lì a girare e rigirare. Infatti, se la cosa la compri in continente, cos'è? Te la mandano per provarla e poi se ti piace te la compri, no, non è così. Lo so, mi sta aspettando la pantera che alle 5 arriva a prendermi. Kappa. Qui io sto, in questi giorni sto riparando qualche televisore. Due li ho riparati, anzi tre. Ah, beh, bene. Vabbè, uno, mi sono fatto dei soldi, gli altri due sono miei, perché erano da pezzi di ricambio, ma io l'ho riparato. Sì, è fatto bene, almeno qualcosa in più è fatto, dai. Aspetta, poi c'è un computer che è lo stesso, è come quello che aveva da Claudio, di un tipo di Oristano. L'ho sistemato, dicevo, accendevo, gliel'ho messo a posto, poi ho visto il sistema operativo, era tutto messo male, gli ho tutto pulito, cambiato la pasta di raffreddamento, insomma comunque muovendo la favola, mi deve dare 40 euro da 50 che gli ho chiesto, ho detto dammene 40, di mano non scendo, e sì sì vengo, boh, sparito. Questo è un come si chiama? Funziona benissimo, perché l'ho provato a casa della mia ragazza fino a ieri, lo stavo usando lì e ce l'ho già da un bel po', è un Lenovo. Sono belli quei microfoni, ma quei computer sono belli. Adesso vediamo un po', se non sono ritira proprio sentirà. Ma dopo quanto tempo ce l'hai a casa? Ce l'ho dall'estate. Cosa tu mi porti un computer, sai che quel PC non funziona? E io t'ho sistemato perché non andava. E poi mi trovi scuse che. Cioè poi me la devo fare. Se per me se funziona. Io l'ho sistemato e poi mi dici che 50 euro è troppo. Ma macu. Comunque ti ho detto che. Adesso vediamo, io devo parlare con una persona, glielo dico, gli dico che tramite questa persona l'ho avuto per sistemarlo, glielo dico lì, non mi hai più sentito, non lo faccio in soldi, cosa me ne posso? C'ho tre portatili anche. Certo, non fatto i soldi, cosa tanti, cioè se aspetti più, non so quanti mesi bisogna aspettare prima di poterlo dire che è tuo, capito? Oppure che te lo puoi vendere, non lo so. Però io non è che lo posso fare, non ho un negozio, Sì, anche quello è vero. Ma io l'avrei avvisato, cosa devo fare? Se lo prendi mi dai i soldi oppure me lo tengo io, cosa mi va? Io glielo ho detto, sono sceso di 10 euro, come te, se è a posto, niente pure di gambo qua, non so cosa pretende la gente, e io non è che ti posso un computer ma desidero, ma non me ne portare neanche. C'ha ragione. Vabbè, devo uscire a fare due commissioni qua vicino, Lulu. No, ci sentiamo domani mattina eventualmente, se non più tardi. Più tardi no, stai uscendo, quindi niente. Va bene, dai, Lulu, ci sentiamo domani mattina e ti faccio uno squillo. Ciao, buona serata, a presto. Ciao a te, a domani, ciao. Ciao.